La filosofia rappresenta, nell'era attuale cosiddetta ipermoderna, una medaglia a due facce, una utile e l'altra inutile. Nell'era dell'intelligenza artificiale e dell'automatismo tecnologico, la filosofia può essere vista come l'inutile per eccellenza. Esiste però una stretta cerchia di persone, tra cui io, la filosofia come dottrina indispensabile e che oggi più che mai nella storia del mondo è irrinunciabile per una personale ed alta qualità di vita. Ecco allora tre motivi per cui la conoscenza della filosofia è irrinunciabile per chiunque si impegni a sostenere, migliorare o curare la propria vita oppure quella degli altri. Primo motivo, la filosofia rappresenta da tempo immemore la via di accesso alla salute. La ritroviamo infatti in Grecia, in Medio Oriente, persino in Estremo Oriente, sotto forma di spiritualità. Se una disciplina è in grado di rimanere vera e viva per centinaia e centinaia di anni, un patrimonio a cui nessuno o pochissimi sono disposti a rinunciare. Secondo motivo, la filosofia ha un lato estremamente pratico che si manifesta attraverso il dialogo. Rispondere alle domande che fondano il sapere filosofico rappresenta la conquista della felicità nonché della saggezza. Ed in questo contesto storico vi è estremamente bisogno di saggezza. Terzo ed ultimo motivo, la filosofia è in grado di far sognare. E l'immaginazione è una via preferenziale di accesso alla bellezza dell'anima. Anche per questa lezione è tutto. Ci vediamo fra pochi istanti per il prossimo video su l'ipnosi e l'autoipnosi. Ciao!